Salve, sono Stefania, il popolo di Barabba, e sono insieme all'amico Giorgio di Radio Big World. Oggi volevo un attimino affrontare il tema dei dettagli. Venendo qui a Radio Big World ho tuttora comunque le idee molto molto confuse, perché ve l'ho detto già altre volte, sono tanti i pensieri che affollano la mente di una persona. E stamattina ho detto, va, visto che sono tanti, scendiamo un po' nei dettagli. E mi è venuto in mente questa cosa perché stamani mattina sono andata a ritirare due sedie che avevo in un appartamentino, due sedie sfondate praticamente, però molto belline, probabilmente delle sedie antiche, e che ho fatto restaurare. E ho pensato a questo dettaglio. Stamattina sono andata a riprendere le sedie, ho detto, guarda, è bastata un rivestimento di un altro colore particolare, insomma, che ha ridato vita a queste sedie. Prima si sarebbero trovate come sedie vecchie buttate in un angolo da bruciare, e ora invece magari sono, per chi le vede, sedie di una certa importanza. È bastato il dettaglio della fodera con le quali sono state rivestite. Straordinaria questa cosa, e sono due seggioline che fanno la loro bella figura. E questo guardare al dettaglio mi ha portato anche a guardare nelle relazioni tra gli uomini, guardare il dettaglio. Mi spiego meglio, il popolo di Barabba parla sempre di educazione. Ero con i miei nipoti, uno di 8 anni, una di 2. Quello di 8 anni è un po' geloso, ma rientra nella normalità. Stavano discutendo tra di loro e mio marito, a un certo punto, quando ha visto il grande che strattonava quella più piccola, ha pensato bene di dirgli, no, non lo fare così, è piccola. E quello più grande è venuto da me e mi ha detto, questa parola mi manda in bestia, non riesco più a controllarmi, nonna, quando mi dicono che lei è piccina. E ha ragione, ha ragione il grande, perché lei è piccina, e con questo messaggio, no, lei è piccola, può fare quello che vuole, te sei grande, non puoi fare tutto quello che vuoi. Questo è il messaggio che è arrivato al grande. Ma è arrivato anche alla bambina piccola, perché lei dopo un secondo intero, con quella faccetta da furbetta, ha cominciato a dire, io piccola piccola, come per dire, lasciatemi fare perché io sono piccola piccola e posso fare quello che voglio. Questo è il messaggio che mio marito inconsapevolmente, è un dettaglio, si può dire, ma un dettaglio importante, perché è un dettaglio con il quale questi due bambini poi crescono. Lui cresce con la sensazione di essere grande e che tutto non gli è concesso, come è giusto che sia, che non è concesso tutto, mentre lei cresce con l'idea che, siccome è piccola, può fare quello che vuole. È un dettaglio. Lasciala fare, lei è piccola. E mi ricordo che quando ero piccola io sono cresciuta con questo, non lo toccare il fratellino perché lui è piccolo, sono cresciuta con questo piccolo. E non è giusto, dovremmo un attimino rivedere anche i nostri linguaggi nei confronti dei bambini, perché sono questi semi che poi ci portiamo dietro per tutta la vita e condizionano il nostro modo di essere. Poi chiaramente nella crescita si aggiustano, si mitigano, se abbiamo la fortuna di incontrare persone che ce lo fanno notare, probabilmente queste piccole somme si attutiscono, però non è così scontato. Ci sono persone che se le tengono dentro, e se le tengono dentro per tutta la vita. Mi è capitato di assistere ad una persona parecchio anziana, insomma, era inferma e stava praticamente andando via con la testa, aveva un principio di Alzheimer, insomma era parecchio combinata male. conoscevo la storia di questa signora, una signora che aveva vissuto la sua infanzia con due genitori che si picchiavano in continuazione, che insomma, che poi si separarono. Insomma, non ha avuto un'infanzia piacevole. Mi raccontava, quando stava bene, che lei dormiva nella camerina accanto e li sentiva sempre litigare, urlare, e lei si copriva la testa con il lenzuolo, con le coperte, per cercare di non sentire più, anche se le voci poi arrivavano comunque. Ma voi pensate che all'età di 86 anni, nel letto di morte, questa signora, quando sentiva la televisione un attimino più alta, si copriva la testa. Gesto che si a 86 anni lo faceva quando aveva 5, 4, 5, 6 anni, ha continuato a farlo per tutta la vita, fino a che poi nel punto di morte, ha continuato anche in punto di morte, perché le urla gli davano noia e quindi si copriva la faccia, la testa con i lenzuoli. Ecco, oddio, questi non sono i dettagli, ma per far capire quanto sono importanti le azioni che ciascuno di noi fa nei confronti degli altri, le ripercussioni che queste azioni hanno verso gli altri. A livello educativo sono stravolgenti. Mi auguro che gli adulti, anche se oggi purtroppo devo ammetterlo, scusate cari amici, ma devo ammetterlo che non è così, si vive in un mondo molto superficiale e i dettagli vengono praticamente coperti, non vengono neanche visti, no? Coperti, non vengono neanche visti. Non siamo abituati ad approfondire, non siamo abituati a guardare in fondo alle cose e quindi il dettaglio chiaramente ci sfugge. E su questo, visto che i dettagli sono molto importanti, dalle cose più futili, dalle sedie della casa che dovevano essere buttati via e con poche palanche ti ritrovi due sedie davvero molto carine e molto belle invece di comprarne altre nuove, da questi motivi così superficiali, devo dire, a quelli più importanti, come il dire non lo fare questo, lei è piccina, si può condizionare molto la vita degli altri. L'invito è in primis a me stessa di stare davvero molto attenta ai dettagli, soprattutto nelle relazioni umane. Grazie.